che avevi a me tu dato, nella prigione io l'ho servato, ora che ha passito il picciol fior, il suo profumo aveva schiava amor mi fu.